Se hanno il cuore libero, i loro corpi sono disponibili. E mi pare di non avere il diritto di lasciar perdere l'occasione. La verità è una soltanto. Loro vogliono ciò che voglio io, l'amore. Tutti vogliono l'amore, ogni specie d'amore.